Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Ario e Berto camminavano lungo le rive, tra cumuli di sabbia sbarcata dai trabaccoli e cataste di cassette che venivano scaricate dai carri e caricate subito a bordo. Berto si era avviato per di là e Ario non capiva dove intendesse andare. A un certo punto Berto si fermò e affondò la gamba in uno di quei cumuli di sabbia, poi la ritrasse e stette a vedere come i granelli dorati gli scorressero giù dal piede e tra le dita aperte. Taceva. «Dimmi», gli sussurrò Ario, «a casa tua non sanno ancora? Non hanno scoperto niente?» «Ah, già», rispose Berto, tornando ad affondare il piede nella sabbia. «Non ti ho detto ancora tutto». Ario lo guardò con la fronte subitamente corrugata. «Dunque, senti», cominciò Berto, mentre da qualche parte una voce gridava minacciosa, «Uè, non sparpagliatemi la sabbia!» e s'allontanò tranquillo dal cumulo avviandosi tra i carri e i cavalli. Quella sera stessa, prima di uscire dallo stanzino, mi venne un'idea. Lanciò un'occhiata ad Ario, come per dirgli «sta a sentire come sono furbo», e riprese. Pensai che Lidia, ricordandosi delle mutande, sarebbe tornata nel camerino di lì a poco o la mattina seguente per riprendersele e lavarle di nascosto o per buttarle via. E allora, per farle pigliar paura, sai cosa feci? «Gliele nascosi!» scoppiò a ridere. Quella notte Lidia dormì poco, si voltava ogni tanto sul materasso e udivo dal suo respiro che era sveglia. A momenti sembrava si riaddormentasse, ma poi tornava a svegliarsi. Il mattino seguente, quando mi destai ed era presto, il suo letto era vuoto. Mi alzai e la cercai. Era nell'andito della doccia. Pallida. Passò avanti evitando il mio sguardo, poi la osservavo dalla rimessa oltre la porta aperta della doccia. Tornò indietro. Entrò nel camerino e poco dopo ne uscì. Fece così due o tre volte. «C'è stato qualcuno?» si decise ad affrontarmi ieri sera nel camerino. «Non lo sai?» «Sì», risposi. «Anzi, mi sembra ci sia stato più d'uno». Da pallida divenne di fuoco. «Ah!» fece e lanciò un'occhiata in fondo all'andito. «E chi?» «Non lo so». Aspettai che tornasse a guardarmi negli occhi. «Forse Eneo?» «Può darsi», rispose. «Lui è sempre qui». Si era ripresa del tutto. «Ma più tardi», insistette, «c'è stato qualcun altro?» «Si tratta», volle spiegarmi, «che deve essermi caduto lì il mio braccialetto, sai? E non riesco a trovarlo più. Eppure quando sono entrata, per prendere un remo, mi ricordo che l'avevo». «Sì, sì», feci, «adesso mi ricordo». «Sul tardi», e la osservai, «deve esserci entrato papà». Ridiventò di colpo più pallida di prima. «E non ti so descrivere i suoi occhi. Il fiato le mancò dalla paura». «Dunque, papà, dovete pensare, ha trovato le mutandine e le ha prese, sa tutto». «Non ti dico!» scoppiò a ridere Berto. «Come mi sono divertito!» Ario provò a ridere con lui, ma non poté. Aveva vissuto in quegli istanti l'angoscia di Lidia e il suo terrore di dover subire da capo l'esame da parte di quell'ubriacone pazzo. L'esame, come quella notte... E con che risultato questa volta? «Torniamo indietro?» domandò all'improvviso a Berto, quasi volesse dirgli «ora basta». «Come vuoi», rispose quello, e si voltò. «Ma non è ancora finita». Ario stette di nuovo ad ascoltare, sino in fondo. Quel giorno stesso, mamma mi domandò dove poteva trovare una spugna. «Sai dove?» le suggerì in un momento che Lidia era fuori. «Nel camerino scuro. Devo averne veduta una giorni fa». la precedetti, mentre lei indugiava in cucina, cercai e trovai una spugna che c'era lì nel camerino e la collocai, insieme alle mutande appallottolate e dure di sangue, in un canto, tra due casse. Quando mamma entrò, illuminai il camerino con la lampadina da tasca, ora qua e ora là. «Eccola!» gridò mamma e si abbassò. «Ma che cos'è?» disse a un tratto, restando curva. Poi non disse più nulla. Vidi che richiudeva subito le mutande. Si rialzò, sempre zitta, tenendole strette tra le mani, e mi lanciò un'occhiata come per leggermi in viso, se avevo capito. «Ma non è quella! La spugna è qui!» disse io, raccogliendola. «Eccola!» e feci per dargliela. Me la buttò a terra con un colpo. «Lidia è entrata qui con qualcuno? L'hai veduta?» «Lidia?» finsi di stupirmi. «No, non so.» «Maledetto!» gridò allora. «Maledetto ipocrita! Le tieni terzo, eh? Credi che non l'abbia capito? Sei d'accordo con lei? Ma non comprendi che così la rovini? Tu, suo fratello, la farai diventare... è meglio non dire che cosa.» «Perché?» feci io. «Sono sue.» E indicai l'indumento. Non rispose. S'allontanò con una furia che non l'avevo mai vista, e quando fu all'angolo dell'andito si voltò e mi fissò con due occhi da pazza. Alzò la mano per minacciarmi e... «Bada!» disse. «Bada di non fiatare con nessuno. Accoppo io te prima che papà scacci lei.» Appena Lidia rientrò, sorridente, profumata, la portò con sé nel camerone e lì le saltò addosso e le fece il vestito a brandelli sino a lasciarla seminuda. La bastonava, dovevi vedere come, e la mordeva e le strappava i capelli, sibilandole, gridandole di tutto, anche «puttana!» «E Lidia?» domandò Ario col respiro in gola. «Taceva. Si lasciava percuotere, insultare e sputacchiare e taceva. Guardava mamma, fisso negli occhi, e taceva. Ormai nuda com'era rimasta, perché mamma le aveva tirato di dosso tutto, anche la collanina di corallo, stava ritta in mezzo alla stanza con le sole scarpette. Si lasciava fare da lei qualunque cosa, sempre guardandola fisso, mentre le gridava «puttana, puttana!» e taceva. Io ho visto tutto, concluse, stando dietro la porta. E poi... fece Ario. «E poi? È finito?» «Ah no, il giorno dopo in cucina. Giurami», mi fece promettere la mamma, «che non dirai niente a nessuno. Lidia ha saltato il fosso. Se tu parli, la rovini.» Era finito, finalmente. Berto gli aveva detto tutto. Ario si sentiva stravolto e intontito. Era senza parole e senza pensieri, soverchiato dalla prepotenza delle immagini destategli da quei racconti. «Ma no!» tentò di liberarsi, di scuoterle da sé. «Non può essere vero!» Ancora una volta, tutto ciò che Berto gli aveva raccontato con gli occhi lucidi gli appariva come un seguito mostruoso di invenzioni. Anzi, quanto più quelle immagini si imprimevano in lui, evidenti, reali, agitandolo, sconvolgendolo, quasi avesse visto, udito tutto lui stesso, tanto più gli sembravano fantastiche. «Non è vero», ripeté, e credette all'istante di averne la prova. Aveva veduto Lidia in quei giorni, dopo il ritorno di Eneo, sempre tranquilla, del suo umore più lieto e pacifico, tutto occupato di Eneo e dello skiff come un tempo, aveva visto ogni giorno Berto e calma, senza crucci, la loro madre. Come poteva darsi dunque che in quelle stesse giornate, in quelle stesse ore, li avesse agitati Lidia, la madre, Berto, quel turbine improvviso? «No», concluse, «non può essere vero. Avrei sospettato, indovinato qualcosa soltanto a vederli. E Berto, soprattutto nelle ore che siamo stati assieme, avrebbe finito col tradirsi. No, è soltanto una sua fantasia.» Erano giunti davanti alla grande costruzione bianca, pontili, terrazze, cabine, del bagno Savoia. E Ario, che non vi era mai stato perché gli sembrava un posto da signori, si ricordò e sentì crescere un'inquietudine che quell'estate Lidia aveva cominciato a frequentarlo. «Eh?» cosa dici? Ma non raccontarlo, sai, udiva la voce di Berto. Giurami che non lo farai sapere a nessuno. Bisogna che gli faccia confessare, pensava Ario, che è tutta una sua invenzione. Ora provo. Avrebbe saputo la verità in pochi istanti. Lo udiva già ridere. Bella, eh? Non sembrava vera. E come l'hai bevuta? Scommetto che hai finito per comprendere che me la sono inventata soltanto perché ho voluto lasciartelo capire. No, avrebbe riso lui, traendo un respiro. L'ho capito subito, ma mi piaceva ascoltarti sino in fondo, sentire sin dove saresti giunto. Si levò, invece, di nuovo, prima ancora che egli cominciasse, la voce di Berto. E fu il crollo. Mamma mi disse anche, il giorno dopo, in cucina, che Lidia le aveva promesso davanti a Dio. E sai che Lidia è rimasta come da piccola, eh? Va in chiesa, si confessa e prega ogni sera, che non ci sarebbe ricascata mai più. Invece figurati se è stato vero. Da allora, e non capisco se mamma non se ne accorga, deve esserci ricascata chissà quante volte, quasi ogni giorno. Ario si fermò. Gli era sembrato che tutto il sangue gli si arrestasse. «Che hai detto?» fu per balbettare, ma non gli uscì parola. «Chissà quante volte», si ripeteva, «quasi ogni giorno». «Ma», fece infine rauco, «quando è accaduto la prima volta nel camerino scuro?» «Sarà stato lo scorso luglio?» «No, era in giugno forse, insomma, in quel periodo lì, poco dopo l'esame». «Sono riuscito a non parlartene mai, ma ora...» Non ascoltò altro. Tutta la visione che gli aveva di quell'estate, già ferma, radicata, si era capovolta ad un tratto. Sentì come uno strappo, violento, e un giramento di testa. «È vero», fu l'unico pensiero che gli emerse dalla coscienza. «Allora è vero, tutto». Adesso capiva. Vedeva. Lidia si era data a Eneo qualche tempo dopo l'esame, verso i primi di luglio. Ed egli non aveva potuto sospettare nulla, né dal contegno di Berto, né da quello di lei, perché in quei giorni evitava di andare alla Virtus. Erano quelli proprio i giorni, come se ne ricordava, in cui aveva scoperto che Eneo andava a letto con sua madre e schivava di incontrarsi con Berto per il timore che egli lo sapesse e lo svergognasse dicendoglielo. Si ricordava, come fosse adesso, anche dei pochi momenti che aveva trascorsi in quei giorni con Lidia. Non gli piaceva quella settimana neanche vederla. Dopo quello che aveva scorto di notte nel camerone, il ricordo di sua madre con Eneo lo ossessionava, era caduto anche il suo piacere di trovarsi con Lidia. Gli faceva un'impressione di pena e di schifo pure lei. Sentiva e provava un senso di malessere quasi angoscioso di detestare tutte le donne. Per sempre. Tornava a ricordarsi di quel mattino che Lidia gli era venuta accanto sul ballatoio mentre lui stava rimettendo le lamine alle pale di due vecchi remi. Aveva finto di non vederla e poi, appena lei gli aveva parlato, l'aveva trattata male. E si ricordava di quell'altra volta che ella gli era tornata vicino come se non le bastasse il primo smacco. «Dici sul serio?» gli aveva chiesto sorridendo. «Che non lo hai mai desiderato?» «Che cosa?» aveva riso, guardandolo negli occhi. «Di baciarmi?» «No», aveva risposto, sentendo soltanto fastidio e vergogna per lei. Gli sembrava allora che Lidia fosse stata abbandonata da Eneo, ormai legato a sua madre, e che nessuno lì nel porto si degnasse più di darle bada. Senza Eneo, senza nessun altro, gli appariva miseranda, diminuita, e gli faceva, oltre che disgusto, anche pena e tristezza. Si sentiva quasi umiliato per lei. E invece, com'era diversa la realtà che egli veniva a scoprire appena oggi. Lidia aveva toccato, proprio quei giorni, il culmine della sua vita. Gli bruciava con un'inquietudine incalzante e avrebbe voluto disperatamente ritornare indietro di non averla in quei momenti, mentre erano assieme sul ballatoio, neanche osservata. Anziché a lei, ostentava di badare al proprio lavoro, ai remi che stava laminando. Era ancora intatta In quei momenti si domandò, oppure... ed ebbe, sin quasi a sentirsi soffocare, il cuore in gola. Ad ogni modo, tentava di ricostruire, deve essersi data a Eneo nei giorni tra l'esame e il secondo racconto di Berto, quando Berto mi ha rivelato che non è figlia di suo padre e che lei stessa gliel'ha detto, tutto doveva essere ormai accaduto. Volle assicurarsene. «Già», rispose Berto, «e mi disse di non essere mia sorella vera e che mio padre è per lei poco più di uno qualsiasi, proprio perché, non essendo più vergine, tremava al pensiero di un altro esame. Cercava, capisci, di mettere le mani avanti. Mi disse chiaro e tondo che papà quella notte aveva compiuto una porcheria, che egli non aveva il diritto di esaminarla perché non era sua figlia». E che ci guardassimo bene, me lo disse e me lo ripeté fissandomi, di farle da capo cose simili, che non lo avrebbe tollerato mai più. Ma sono tutte cose che ti ho raccontato. Sì, mi ricordo, fece Ario, ma allora, quando mi hai raccontato che Lidia non è tua sorella vera, sapevi già tutto? L'avevi vista giorni prima entrare con Eneo nel camerino scuro e avevi condotto la tua madre a cercare la spugna? Berto assentì. E fui quel giorno a un filo dal raccontartelo. Mi ricordo che ti guardavo e pensavo, glielo dico o non glielo dico? Ma poi riuscii a vincermi e ho taciuto un pezzo, come vedi. E tuo padre, si informò ancora Ario, non è venuto a saperlo? Voleva conoscere tutto adesso, in compenso di aver ignorato troppo a lungo una cosa che sentiva sua, quasi appartenesse alla sua vita altrettanto che a quella di Lidia. Ed era, questo, anche il solo modo di placare l'angoscia che a tratti gli stringeva il petto. No, papà non ha saputo niente, perché non glielo dissi. Strano, esclamò Ario, e fu come se pensasse ad alta voce, che non gli sia nemmeno venuta l'idea di esaminarla un'altra volta. Già, fece Berto. Ma ti dirò che a lui importava soprattutto che Lidia non si lasciasse portare di nuovo a bordo dell'Empedocle, come se solo lì ci fosse il pericolo. Ed era stato proprio questo, e solamente questo, che Lidia aveva evitato. Quei giorni, subito dopo l'esame, si tratteneva sempre sulla canottiera come per obbedire al padre. Sembrava davvero che avesse messo giudizio. Se ti ricordi, non usciva quasi mai, discorreva un po' con tutti, anche con te. Berto lo guardò in quell'istante negli occhi e Ario sentì una fitta e pareva se ne infischiasse di Eneo. Quella sua condotta aveva tratto in inganno tutti, e specialmente il padre, che passate certe furie, non era tipo di pensarci su. A lui bastava che Lidia non andasse sull'Empedocle. E come poteva andarvi? Se era sempre sulla Virtus e non si occupava più di Eneo. Invece è accaduto proprio quei giorni, e sulla canottiera, in casa nostra. Sarà in parte così, pensava Ario, ma la ragione per cui non ha più seccato Lidia è un'altra. E Berto non lo sa, non può saperla. Ed è strano anche, continuava Berto, che persino mamma sembri non accorgersi più di nulla. Io, se fossi in lei, mi sarei insospettito, se non altro. La ragione vera, pensava Ario, per cui il padre non ha più seccato Lidia, è che mia mamma non l'ha più messo su contro di lei. Se l'ubriaco l'aveva sottoposta quella notte all'esame, era stato, Ario non poteva dimenticarselo, soltanto perché sua madre, che aveva spiato Lidia, l'aveva denunciata a lui come se quella sera si fosse fatta deflorare a bordo dell'Empedocle. In seguito, certa ormai di aver conquistato Eneo, ella non si era più neanche preoccupata di spiare la fanciulla. Cosa non facile, del resto, dato che tutto avveniva entro la Virtus, e ignorava che Eneo continuava a trovarsi con lei. Ecco perché il padre di Berto non aveva più seccato Lidia, né sospettato niente. Gli era mancata la spinta per cui aveva agito la prima volta. «Io, se fossi mia madre, ripeteva Berto, mi insospettirei se non altro perché Lidia, da qualche tempo, ha sempre soldi con sé». Ario si fece attento. «Non molti», gli spiegò Berto. «Qualche biglietto da 10, ma è facile capire che è Eneo che glieli dà». «Eneo? egli era stato dunque, durante quei mesi, l'amante di entrambe. Quella situazione, che di colpo rovesciava, mutava il senso di tutto ciò che Ario aveva vissuto e visto quell'estate, gli appariva, come ciò che Berto gli aveva rivelato altre volte, incredibile e complessa, intricata in un modo che la rendeva maggiormente mostruosa. E la sentiva vera, tuttavia, in ogni particolare, vera, senza scampo e persino quasi con sgomento, come se incombesse tutta su di lui, grandiosa in un modo oscuro. Stette a pensarci e suo malgrado ammirò un istante Eneo. «Ciao, ti saluto!» gli aveva gridato Berto, vedendo passare un cugino in motocicletta. Erano giunti oltre il bagno, dietro la stazione transalpina, e appena quello si fermò al suo richiamo, gli si sedette alle spalle sul sellino. «Vado con lui all'arsenale!» Solo Ario tornò a casa. Non guardava intorno. Pensava. Gli pareva di essere ormai quasi calmo. Lo quietava, soffocandogli il rimpianto e persino l'amarezza, la fatalità che sentiva in tutto quanto era avvenuto. Cominciò a un tratto a affrettare il passo e rialzò il capo. Guardava davanti a sé, oltre il bacino della lanterna, tutto vivo nel mattino di un azzurro profondo, gli alberi e i ponti giganti di una motonave oceanica che appariva dietro l'edificio oblungo della stazione marittima e lo sovrastava. Affrettò il passo ancor più. Gli era balzato incontro, come una ventata rapinosa e fresca, il ricordo di una gita fatta in golfo a bordo della Saturnia. Un parente di Berto, un marittimo, li aveva invitati a salire a bordo durante un giro di collaudo. Erano entrati, attraverso uno degli enormi portelli aperti nella murata, su per una scala di corda. Sopra si erano subito perduti. Berto e il cugino da una parte, Ario dall'altra. Ma gli piaceva essere solo. Guardare a perdita d'occhio la scia larghissima, bianca e verde sul mare blu, e i gabbiani che volteggiavano con gridi rauchi, e correre a prua, scrutare, socchiudendo gli occhi nel vento, l'orizzonte marino. Lo esaltava, sino a fargli perdere il capo un senso di libertà sconfinata che si mutava in un'impressione veemente e ariosa di pienezza, di gioia di vivere. «Navigare, andar via!» pensava. Sarebbe partito a bordo di una motonave come quella o più grande ancora. In Oriente voleva andare. Da qualche tempo gli avveniva di pensare all'Oceano Indiano e al Pacifico. O in America. Camminava a svelto. Gli pareva d'essere già a bordo, libero. Tutto il resto, l'infanzia, il mandracchio, la mamma, Lidia, rimaneva indietro. Spariva per sempre, come era scomparsa rapidamente quel giorno in fondo al golfo, la città. Sua madre, Lidia, oh, lo avrebbero rimpianto un giorno e avrebbero desiderato di rivederlo per una volta almeno. Ma lui non sarebbe ritornato mai più. E avrebbero udito parlare di lui. Sarebbe diventato famoso. Non sapeva che cosa avrebbe fatto, ma sentiva che doveva diventare famoso. Era contento adesso, come liberato, e procedeva a fronte alta, ascoltando la brezza che gli giocava fra i capelli. Pure a un tratto si portò la mano alle ciglia e la ritrasse bagnata. Era contento, ma aveva le lacrime agli occhi e la gola chiusa. Si scosse e affrettò di nuovo il passo. «Appena ho l'età giusta», si prometteva, «non attendo un giorno. Mi imbarco!» Era la voce di Ferdinando Bruni che legge la puntata numero 18 dell'Onda dell'Incrociatore di Pierantonio, 48 Gambini. E questo il ciclo proposto ad Alta Voce per tutto giugno. Siamo sulle ultime puntate, appunto si concluderà la lettura il prossimo venerdì con la puntata numero 20. L'intero ciclo, come di consueto, è riascoltabile in podcast sul nuovo sito raiplayradio.it alla pagina di Ad Alta Voce. Un programma, ve lo ricordo, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con la regia di Luigi Iavarone. E sul nuovo sito appunto di raiplayradio.it avete anche la possibilità di ritrovare l'intero ciclo di romanzi letti ad alta voce per voi, classici, noti e meno noti, una biblioteca di audiolibri, la più grande, anzi potremmo definirla così, la più grande biblioteca di audiolibri a disposizione gratuitamente sul web, di audiolibri in italiano chiaramente.